nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E quindi cerchiamo di essere frizzanti, insomma, se questo come sempre è l'introduzione. Ma eccoci a ricominciare, insomma, a chiudere una settimana come sempre il sabato insieme io con voi e a ritornare su alcuni fatti della settimana, a farne un po' un bilancio e poi anche a capire che cosa vi ha coinvolto di più, che cosa vi ha colpito di più in questi giorni. Ma che cos'è come sempre il nostro rito, no? Che ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Ebbene, sappiate che mentre finora si era pensato che stando in alto, che sia un palazzo, ecco, immaginiamo i grattacieli, no? Cioè, io anche a Milano che so, svetto al 15° piano, quindi i rumori, l'aria è migliore, sono più in alto, ho anche uno skyline, come si dice, un orizzonte, un panorama diverso, quindi insomma me la godo di più che chi sta ai piani bassi. Invece no, cambiano anche queste cose, cambiano le ricerche su ciò e pensate che a vivere in alto si invecchia di più. Uno studio americano lo conferma tra l'altro un'intuizione di Einstein, era già stata sua questa intuizione, cioè il tempo in alto, se si è ad alta quota, scorre più velocemente. Sì, perché la forza di gravità, pensateci un po', insomma, è meno, è più leggera, e quindi l'orologio che corre più velocemente e si invecchia di più. E praticamente vivere all'ultimo piano, pensate, di un grattacielo in una bella città, no? Abbiamo detto, assicura questo bel paesaggio, ma fa invecchiare più velocemente, e questi dati sono stati diffusi da questa ricerca americana, e pensate che ha una distanza di soli 2 gradini più di quello che sta sotto, no? Una persona che in corso di una vita, per esempio, di 79 anni, la persona che si trova più in alto, anche solo di 2 scalini, invecchia, attenzione, invecchia 90 miliardesimi di secondo in più rispetto a quella che sta più in basso. Insomma, uno dice, vabbè, non è che sia proprio così, però fatevi i vostri conti, la vita già è breve, 90 miliardesimi di secondo in meno, sempre quella cifra lì. Ma comunque adesso ritorniamo sulle altre notizie della settimana, il numero verde per voi 800 24 00 24. Cosa vi ha colpito di più? Qual è il fatto che vi ha lasciati un po' più così perplessi, che vi ha fatto riflettere, vi ha entusiasmato oppure vi ha avviliti? Certo, la politica in questo momento, dice qualcuno, anzi molti opinionisti sui vari quotidiani in questi giorni, un'opinione pubblica frastornata. Voi vi sentite frastornati da tutto quello che succede? Lo diceva anche ieri sul Corriere Piero Ostellino, per esempio, lo ripeteva oggi sempre sul Corriere Pierluigi Battista. Voi vi sentite frastornati? Andiamo a prendere per esempio un pezzetto dell'editoriale Pierluigi Battista, che appunto, ripete, opinione pubblica frastornata, dice: tra l'apertura di una delle pagine in questi giorni più torbida e avvilente della politica italiana, mai come oggi macchiata da sospetti, guerre di dossier, insinuazioni, denigrazioni, lotte di potere che finiscono per indagare e per infangare insieme ruoli istituzionali e apparati di sicurezza. Insomma, queste, diciamo, sono alcune tra le cose più evidenti, ma se c'è qualcos'altro che vi ha interessato in modo particolare, il numero verde lo sapete, è 800 24 00 24. Ma come sempre, a chi mi accompagno? Io sempre un opinionista estemporaneo, e oggi chi ho scelto? Michela Murgia. Eccomi qua. Ecco Michela. Michela è scrittrice di grande prestigio, visto che ha vinto quest'anno il premio Campiello. Insomma, una grande conquista, no? Per una scrittrice, Michela, che poi neanche da secoli, diciamo, scrivi tu, no? Quindi, diciamo, un bel successo, o no? Beh, sì, direi di sì. Scrivo da poco tempo e devo dire che questa cosa del Campiello ancora non l'ho metabolizzata. Tutte le mattine scendo e lo tocco. E lo tocchi sto premio? È sempre lì bello solido. Ma tra l'altro Michela, diciamo, è balzata poi agli onori della cronaca letteraria e non già tempo fa, perché Michela, che ha vinto il premio Campiello quest'anno con Accabadora, pubblicato da Einaudi, aveva scritto qualche tempo fa Il mondo deve sapere, che poi è diventato il famoso film di Virzì, Tutta la vita davanti, no? Su questa storia tragicomica del vivere da precari in un call center, un po' il paradigma forse anche del mercato del lavoro di oggi, no Michela? Purtroppo sì, nel senso che magari il precariato fosse solo nei call center, in qualche modo farlo coincidere col call center serve anche a ridimensionarlo, a dire una cosa che non mi riguarda. Non pensavo di costruire un paradigma in quel momento. Michela, se tu dovessi dire tra le notizie, anche se adesso vuoi soltanto buttare lì il tema e poi lo approfondiamo dopo, su cosa vorresti tornare fra le tante cose di questi giorni? Forse la cosa che mi ha maggiormente colpito è la questione della questa cosa di portare programmi di addestramento all'interno delle scuole, in qualche modo, fare proposte educative paramilitari o comunque che avvicinino gli studenti a un concetto di vita come battaglia. La vita è una battaglia, ma forse non da prendere a pistolettate, però ecco, questo quindi è il tema su cui è una delle notizie appunto della settimana, questi corsi organizzati in Lombardia nelle scuole superiori, è uno dei fatti piuttosto interessanti e argomenti su cui si può discutere parecchio, ma poi ci sono tanti altri temi, non so, ci sono per esempio le dimissioni un po' spinte, pressate di Profumo, dell'amministratore delegato di Unicredit, allora la questione era che aveva portato dentro troppo i libici come soci in Unicredit, oppure qualcuno dice, Massimo Gaggi per esempio sul Corriere della Sera in questi giorni ha detto la sua colpa è stata quella di volersi sottrarre, di essere indipendente, volersi sottrarre alle consorterie che dominano in questo paese, che comandano, lui che è riuscito in 15 anni a creare l'unica multinazionale con una testa italiana. Ecco, cosa ne pensate? Qualcuno già lo dà come possibile leader per il PD, ma insomma sapete poi questa può essere fantapolitica. Però cosa ne pensate? Cosa pensate anche di tutta questa storia legata a Fini dopo il divorzio con Berlusconi, la casa di AN, appunto dovrebbe arrivare, speriamo, questo videomessaggio, ci teniamo vigili su questo, la situazione economica, insomma ce ne sono tantissimi temi, anche della cronaca, però io direi intanto lancerei un appello prima di sentire anche le opinioni che arrivano come sempre da un altro pianeta, no? Proprio perché intendo con forza che questo programma sia ampiamente democratico e quindi avere anche dei pareri, diciamo, extraplanetari. Però lancio questo appello. Allora, a Tarquinia, dovete sapere, vicino Viterbo, nel Lazio, un pappagallo che si chiama Chicco, questo pappagallo di Tarquinia è diventato famoso a luglio, forse qualcuno lo ricorda, perché è accusato di stalking dai vicini. Che faceva questo pappagallo? Un po' molesto, eh? Allora, ogni volta che uscivano questi vicini di casa, lui dava del terrone e del ciccione a questi due inquilini ogni volta che varcavano il portone dello stabile. È stato denunciato, dopodiché il pappagallo è scomparso. Allora la proprietaria di Chicco è andata in questi giorni dal commissariato di polizia, ha descritto questo pappagallo, io ve lo descrivo, qualcuno l'avesse visto a Tarquinia, piumaggio grigio e coda rossa, e ai postumi di una rottura alla zampetta destra un anellino con la scritta Alba, e la padrona disperata ha detto che parla forse anche troppo, questa è la caratteristica di questo pappagallo, che sa dire papà, mamma, forza Roma, Totti, gol, vie più, sa contare fino a 10 e canta le canzoni delle velone. Se qualcuno lo riconoscesse potete dirlo anche all'800240024. Michela Murgia, mica ti è capitato magari che ti svolazzasse davanti, non so. No, non mi è capitato, però giuro che se mi capita davanti lo tengo per me, non lo rendo. Beh, se comincia magari insomma, a tirare, tu sei romanista per esempio, lui dice forza Totti. No, per me il calcio non esiste proprio sulla terra, non è quello che dice che è importante, non ho mai sentito un animale parlare, neanche uno di quegli uccelli che appunto si addestrano come i pappagalli, e quindi lo terrei come mio diletto. Insomma, speriamo che non capiti nelle mani di Michela Murgia, perché lei se lo terrebbe, quindi non ridarrebbe Chicco alla sua padrona. L'importante comunque sia vivo e vegeto. Però vorrei cominciare, prima appunto di collegarci con un altro pianeta, con uno degli ascoltatori, i primi che hanno chiamato al numero verde 800 24 00 24, curiosa di sapere qual è il suo fatto della settimana, Silvio dalla provincia di Verona. Silvio? Buongiorno. Buongiorno Silvio. A Roberta, a lei, alla sua ospite. Ma vabbè, io sono napoletano, mi trovo per lavoro qui in provincia di Verona, che faccio servizi ospedalieri, va bene. Vabbè, volevo intervenire sul fatto del tormentone dell'estate, no? Praticamente, vabbè, io ferie non ne ho fatto per motivi di lavoro. Mi spiace, fortuna, sì. No, vabbè. Da un però punto hai di lavorato, vista, dici. Vabbè. Sì, da un punto di vista diciamo che il lavoro va. Ma è possibile stare per tutta un'estate intera a sentire a quei quattro deficienti, mi perdoni della parola, per la casa di Fini, perché l'ha comprata, l'ha venduta, ma noi sinceramente, mia moglie ha perso il posto di lavoro, centinaia, migliaia di persone, in tre mesi sono stati persi 165.000 posti di lavoro. La Marcegaglia giustamente ieri diceva che le cose non vanno bene, è inutile che loro vogliono dire che vadano bene, cioè, ma non ci sono altri argomenti un po' più interessanti da far ascoltare alle persone, cioè, a parte la casa di Fini o che si divide o non lo so, non lo so, c'è anche una sua ospite, non lo so, qualche parere da parte vostra. Senti, Silvio, dire. Ma invece della questione profumo? Esatto, vabbè, ecco, io che non profumo usi? Ecco, sì. Paco Rabanne, vabbè. Comunque non volevo dire, non volevo aprire questa questione, no, qui. No. In un momento di crisi come questa, ecco, c'è altro, dici. Che profumo. Si dimette e se ne va con 40 milioni di buone uscita. Due in beneficenza, però, ha detto, Sì, sì, sì, sì, vabbè, anche 38. Io faccio la beneficenza. Cioè, anche io la faccio. Ma per favore, cioè, ma lasciamo perdere. Non voglio dire parolacce perché sono in diretta. No, Silvio, per favore. Senti, la però, visto che tu volevi, diciamo, qualcosa di concreto, ecco, allora hai citato la Marcegaglia. Vedo un'agenzia, un flash d'agenzia di poco fa, che riguarda sempre Marcegaglia e governo, e la leader degli industriali dice: il governo deve andare avanti, deve governare, ma sappia che tutto il mondo delle imprese e cittadini stanno esaurendo la pazienza. Anche tu, quindi, Silvio? Perfetto. Sì, sì, sì, ma Roberta, ti do sì. Del tu, Roberta. Certo, certo. Ma sinceramente, io giro molto per il lavoro, io noto proprio che ormai le persone sono stanche. Violante ha ricevuto, la moglie mi sembra un bossolo in una busta, no? Leggevo l'altro giorno. Cioè, qualcosa succederà, perché ecco, come in Grecia i camionisti hanno bloccato il porto del Pireo, mi sembra. Cioè, sì. Ormai siamo agli sgoccioli, ma però politicamente nessuno si muove, cioè Berlusconi pensa a far venire Gheddafi e lui le escort e una cena da 1.000 persone, cioè, ma stiamo scherzando, ma diamoci un taglio, ma a me non mi interessa, tu fai tutte le cene che vuoi, ma fai qualcosa per il paese come lo sta facendo la Germania, ma io non ho capito perché, come mai la Germania è superiore a noi, ma su che cosa? Cioè, abbiamo tutto in Italia, voglio dire, ma su che cosa deve essere superiore a noi sta Germania? Cioè, vabbè, è più a nord, superiore in senso di altezza. Sono nazionalisti, vabbè. Mi perdoni, non ho capito, Roberto. No, Silvio, stavo facendo una battuta, scusa, per sdrammatizzare, ma mi piace, insomma, questa tua verve, al di là, poi uno può condividere o non condividere, però giustamente, forse, poi dice anche, ma Marcegaglia, bisogna andare un po' sui fatti concreti, il paese, diciamo, non è che proprio se la passi così bene, no? No, siamo messi malissimo. Cioè, io vedo mia moglie, una ditta che lavorava tantissimo, ecco, gli ha dato la busta ma lo stipendio non c'è, e praticamente hanno fatto la riunione e dice: lo stipendio non c'è, mi dispiace, quando si sarà l'avrete. Vabbè, si sono fermati un'ora, vabbè, ma non concludono niente, cioè, voglio dire, ma io non do nemmeno colpa, per l'amor di Dio, all'azienda, perché ormai, cioè, qui è un fatto globale. Io non lo so cosa, ripeto, io nel mio lavoro, per fortuna faccio servizi ospedalieri, ce n'è sempre, quindi, anzi, sempre di più. Non lo so, sta succedendo qualcosa o è stata creata, io non lo so, quindi mettono sempre in mezzo o le veline o l'isola dei famosi o la casa di Fini. Dici cose di poca importanza, secondo te? Sì, ma infatti, sì. Cioè, ma cosa, cioè, che senso, ma cosa me ne frega a me, ma tanto si sa che Fini abbia la casa come D'Alema c'ha la barca, cioè, voglio dire, cioè, non faccio distinzione destro o sinistro, non me ne frega proprio, perché intanto non vado più a votare, cioè, voglio dire. Io ero un elettore di sinistra, lo dico proprio tranquillamente, lo dico, basta, è finita anche la sinistra, cioè, io non lo so, cioè, quello Bersani che si bisticcia con quell'altro, con Veltroni che di Baltone. C'è Piero cosa? Stellino che ieri ha detto delle cose terribili sulla sinistra, che alla sinistra non interessa tanto governare perché tanto diciamo domina un po' certi centri della società civile, diceva, come la scuola, l'università, la magistratura, ha detto delle cose piuttosto forti, poi non so se le condividete. Mia opinionista estemporanea di oggi, ve l'ho presentata prima, Michela Murgia, scrittrice, vincitrice del Campiello 2010 con H. Badora quest'anno, e poi l'autrice di Il mondo deve sapere, da cui poi Virzì trasse il film Tutta la vita davanti. Abbiamo parlato di varie notizie, compreso il pappagallo, l'appello che vi ho fatto, mentre continua a essere invisibile, praticamente non si può vedere il videomessaggio di Gianfranco Fini perché faccia chiarezza insomma, su questa casa di AN, perché i siti sono in tilt peggio di quando si vuole prenotare per esempio un concerto di Madonna o di Bruce Springsteen, una cosa incredibile. Queste sono le vere pop star ormai. Tra poco Bruno da Monza, poi Roberto da Brescia al numero verde 800 24 00 24, però come sapete un collegamento anche un po' fuori da noi, anche visto un po' noi dall'esterno, lo bisogna fare ogni settimana. Riflessioni da Marte. E da Marte è sempre un gran piacere puntare il telescopio verso il globo terracqueo. Qui sul pianeta marziano non c'è bisogno della televisione, la Terra è già una sensazionale TV sferica e il canale preferito, devo dire, è quello italico. Vi siete accorti, per esempio, che in Italia si impara la geografia molto più dalla cronaca quasi fantascientifica a volte che dalla scuola? Vi siete accorti? È così. Chi di voi, per esempio, sapeva dell'esistenza del microscopico staterello di Santa Lucia? Via, siate sinceri, non dite che lo sapevate. Meno male che in Italia c'è una cronaca pirotecnica e una politica da circo Barnum, è veramente spettacolare. Una politica poi, specie in questi giorni, da porte girevoli. Vi siete accorti che qualcuno, dopo il divorzio tra Fini e Berlusconi, è andato dall'UDC al PDL, poi qualcuno pentito è ritornato dal PDL all'UDC, poi qualcun altro dal PDL è andato a Futuro Libertà, poi ci ha ripensato ed è tornato in PDL, insomma. Una gran confusione del resto, quando si è interiormente tormentati nel profondo, le porte girevoli rullano, che è una bellezza. Ma a volte, pensando all'Italia, qui da Marte, viene da farsi, fra le tante, una domanda. Ma cosa bisogna fare per finire in prigione? E restarci un po', no, che io vero da Marte abbia intenzione, però vi ricordate quel camionista che a fine agosto, senza pensarci due volte, aveva ben bene piallato sull'asfalto col suo tir, passandoci sopra un uomo che si era steso davanti al suo camion perché era stato tamponato e voleva giustizia, vi ricordate? Ebbene, il camionista è stato scarcerato ieri, fresco fresco, per godersi il romantico cominciare dell'autunno. Non c'è pericolo di fuga, dicono i magistrati, dunque se non sparisce prima, magari tra qualche anno qualcuno lo processerà, chissà. Cosa c'è? Cosa c'è di strano? Cosa c'è? Cosa c'è di strano? Nel contempo, un marocchino, per aver rubato da un supermercato qualche susina e due o tre pesche, si è beccato in questi giorni un anno di carcere, con la condizionale, vabbè, ma la sentenza è stata solerte e sulla fedina risulta comunque la condanna a un anno. Che paese variegato, sembra un gusto di gelato. In tutta questa varietà, in tutto questo turbinare di cose, però, diciamolo, ci vuole un punto fermo, qualcosa che rimane. Ed eccovi accontentati. Il governo, tramite la società Sogin, ha individuato 52 aree, tra cui per esempio la Maremma o le colline emiliane, insomma postacci, con le caratteristiche giuste questi luoghi per ospitare il sito per le scorie radioattive delle centrali prossime venture. Finalmente, insomma, qualcosa che in tutto questo mutare rimane. Eh sì, perché sapete, una scoria è per sempre. Sempre per sempre. Sempre per sempre, sempre per sempre, sempre per sempre. Ma la vita si muove, va avanti, i giovani diventano veri uomini, le donne non sono pervenute. E cosa inventano il ministro della difesa La Russa e la ministra Gelmini in Lombardia per gli studenti delle scuole superiori? Corsi di sopravvivenza che poi fruttano crediti scolastici. E oltre al primo soccorso e l'arrampicata, cosa si insegna? Cosa insegna l'esercito a questi baldi giovani? Insegna a sparare al poligono. Sì, sì, proprio a usare le armi e a sparare. Motivo di ciò, secondo voi, cos'è? Perché insegnano questi studenti a sparare? La risposta è per combattere il bullismo. Originali questi italiani, dite la verità. In un paese dove per esempio vengono uccise due donne alla settimana, ci si accoltella a gogo tra giovinetti. È una gran bella idea questa, no? Ma se per combattere il bullismo, anziché questo, si provasse a far sentire quest'altro. Living. nuovo che piedi sulla terra, Michela Murgia, mio opinionista estemporanea, mentre stiamo quasi per ascoltare Bruno da Monza, Roberto da Brescia e gli altri all'800 24 0024. Michela, che pensi? Penso malissimo. A pensare male ci si indovina, diceva chi era, Andreotti, non mi ricordo. Sì, penso sì. Malissimo. In realtà la cosa è anche, come dire, non è esattamente così come è stata descritta, nel senso che il ministro La Russa e il ministro Gelmini in realtà erano solo presenti all'inaugurazione di un progetto, loro dicono, studiato da altri. Si tratta comunque di una presenza che benedice questa idea. È un'idea che nelle loro intenzioni dovrebbe servire a formare i giovani al volontariato e in particolare al volontariato in protezione civile, ma è proprio il tipo di narrazione che c'è sotto che è terribile. L'idea, questa cosa del bullismo per esempio non l'avevo letta. Sì, questo è stato il motivo centrale. Chi l'ha detta questo? Sì, dunque l'ho letto in questi giorni, che credo che sia stata, mi pare, la ministra Gelmini o qualcuno, qualche direttore, qualche provveditore che in questi giorni in Lombardia ha dato questa risposta. Cioè il bullismo si combatte a chi picchia più forte, a chi è in grado di mostrare i muscoli, almeno farli intravedere, non dico di usarli. Non capisco la logica, mi sembra veramente sbalorditivo. La nota che ho letto io dava delle motivazioni più istituzionali, di formazione, ma anche quelle non mi tornano, perché nel momento in cui stai tagliando alla scuola, sugli insegnanti, gli insegnanti di sostegno, i precari a cui vengono tolta la possibilità di insegnare, gli allievi accorpati per classe e finanzi progetti di questo tipo, che sono, francamente, non se ne sentiva il bisogno. Bruno da Monza. Qua, signora. No, non mi chiede, signora, mi viene l'orticaria, Bruno. Ok, mi dica la cosa, la devo chiamare. Guarda, se vuoi essere formale, dottoressa, ma lasciamo perdere. Chiamo Roberta. Roberta. Roberta. Dottoressa. Roberta. Roberta. Dunque, signorina, Roberta, io non concordo con quel signore che ha chiamato prima, Silvio, dicendo che il problema di Fini non è importante. Ora, io capisco perfettamente che un signore senza lavoro, non mi riferisco a quel caso, il lavoro ce l'ha, però una persona senza lavoro, eccetera, abbia dei momenti, e in questo momento può capitare frequentemente, abbia dei problemi enormi, ed è un problema importantissimo, ma non è che un problema importantissimo scacci un altro problema importantissimo. Allora parliamo del problema anche importantissimo di Fini. Fini è stato eletto Presidente del Parlamento ed è stato eletto deputato dalla destra e poi passa alla sinistra. È una cosa che in qualunque altra parte del mondo... Non mi sembra di sinistra, però, Fini. Lo è di sinistra, perlomeno ci sono tutti quelli di sinistra che stanno con lui. E quindi, insomma, a questo punto... Forse perché si è dissociato da Berlusconi e qualcosa ha aperto un po'... No, adesso... Quello di mettere in crisi un governo, è da un mese e mezzo che se ne parla, è una cosa vergognosa, tanto quanto quello della crisi, o perlomeno un problema, quello della crisi è un problema preoccupante, perché è un problema, se poi l'Italia subisce la crisi più di altri paesi, quello è un problema degli italiani e quindi il governo se ne faccia parte interessata. Però non è che dobbiamo dimenticare il problema di Fini, perché il problema di Fini ha buttato per aria fango su tutti, servizi segreti, dossieraggi, quando invece lui doveva raccontare che ha fatto una gran porcata. E siccome lui si è eretto a difensore del diritto e della legalità, la prima cosa che deve fare è andarsene, poi dopo essersene andato da Presidente del Parlamento farà, si difenderà, farà le sue azioni. Senti, eccetera, Bruno, eccetera. Scusami, mi senti Bruno? Prego. Volevo dirti, potrebbe essere condivisibile, no, questa tua opinione, se qualcuno insomma è in acque torbide, quantomeno prima di chiarire, insomma, potrebbe dimettersi, ma a questo punto non si dovrebbe dimettere una buona parte, diciamo una certa parte almeno della classe politica attuale, Bruno? Non ho capito la domanda. Ripeto allora. Dunque, tu dici Fini, con questa storia, insomma, che è ancora da chiarire, che è un po' torbida, forse farebbe meglio dimettersi da presidente della Camera, no? Allora, se dovesse essere condivisibile questa tua posizione, Bruno, allora non sarebbe valido questo di dimettersi anche per qualcun altro, diciamo, nell'arco parlamentare italiano? Dunque, Roberta, allora, innanzitutto l'acqua in cui è Fini non è torbida, ma è nera, nel senso che non c'è più niente da dimostrare, abbiamo già dimostrato tutto, hanno già dimostrato tutto, quindi insomma non si può dire. Adesso, per quello io immaginavo che lei mi facesse, perché voi siete tutti di sinistra, quindi però... No, come di sinistra, chiaro, Bruno? Berlusconi, guarda, sono 15 anni... Qui c'è di tutto, c'è di tutto in questa radio, tu la puoi sentire quotidianamente, senti pareri un po' di qua, un po' di là, davvero giusto. Bruno. No, ma io adesso rispondo alla sua domanda, perché la sua domanda è legittima. Berlusconi sono 15 anni che è preso di mira dalla magistratura e finora è stato sempre assolto. Adesso ce n'è ancora due o tre di cose in piedi e vediamo che cosa succederà. Ma lui non ha mai raccontato storie, lui ha detto che non è colpevole. Chi? E finora, lui Berlusconi. Ah. E finora non lo è stato. Ora, sappiamo che ci sono dei magistrati che in 15 anni hanno inquisito 220 persone e poi tutti sono stati, sono processi che non sono neanche arrivati al processo, sono stati tutti ancora prima di entrare nel processo. Eppure questo magistrato o questi magistrati non hanno mai pagato le loro colpe. Queste Bruno, adesso questi cose... 220, non lo so, poi bisognerebbe prendere il nome per nome e capire chi sono e come sono andate le ite. Sparare numeri così. Ci sono articoli sul giornale in questi giorni, no? Che c'è stato un PM che ha inquisito 220 persone in 15 anni e tutte le 220 non sono arrivate al processo perché non avevano commesso il fatto o cose del genere. Quindi, insomma... quindi bisogna vedere, qui il problema di Berlusconi con la magistratura è un problema totalmente diverso da quello di Fini. Bruno, allora... Se Berlusconi l'ha fatto, l'altro invece è una questione di corruzione, di familismo... E quindi sono due cose totalmente diverse. Su questo siamo d'accordo, Bruno. Allora vediamo poi le ascoltatrici e gli ascoltatori cosa pensano. Prima di sentire Cesare da Napoli, Roberto da Brescia, Lorenza da Milano, Michela Murgia, ti volevo chiedere, vediamo se riusciamo a spostare anche un po' su altri argomenti, ma volentieri poi accolgo quelli che preferite voi. Visto che tu hai scritto anche, oltre a Cabadora, pubblicato da Einaudi, che ha vinto il premio Campiello quest'anno, 2010, avevi scritto appunto Il mondo deve sapere, no? Quello sul call center, da cui poi il film di Virzì Tutta la vita davanti. Ecco, un dato di questa settimana, per esempio, dell'Istat è che la disoccupazione balza all'8,5% in Italia e più di un giovane su quattro è senza lavoro, quasi un giovane su tre, che è un dato che così preoccupante non era dal 99. Visto che tu ti sei occupata di questa cosa, hai vissuto anche un po' da precaria, che effetto ti fa questo dato? Quasi un giovane su tre, su quattro non ha lavoro in Italia. Beh, è un dato che stride con le affermazioni di chi dice che stiamo uscendo in realtà dalla crisi, che i problemi li stiamo risolvendo. Da questo punto di vista ha ragione Anna Marcegaglia quando dice che non è vero, che non c'è nessun fondamento in questo, anzi. Non mi suggerisce niente di diverso da quello che pensavo 4 anni fa quando ho scritto quel romanzo. Che il problema è stato sottovalutato. Ricordo quando cambiò il governo l'ultima volta le affermazioni di quello che poi sarebbe diventato il ministro Brunetta, che disse che c'era stata un'enfasi esagerata sulla questione dei posti di lavoro fragili, che in realtà in Italia si stava bene, che chi perdeva il lavoro era per colpa sua, perché aveva il mito del posto fisso, perché non voleva adeguarsi alle nuove modalità del mercato di lavoro. I fatti stanno dimostrando che forse l'enfasi non era tale, era una giusta preoccupazione e non era il caso di minimizzare la questione. Roberto da Brescia, grazie della pazienza, Roberto. Roberto? Se n'è andato. Pronto? Non c'è più pazienza. No, ecco, ci sono, sì. Pronto? Sì, sì, ci sono. Senti, ma è la radio accesa per caso? Già spenta. Bravo, perfetto. Però, buona giornata, signora Roberta. Roberto, a te la parola. Su cosa vuoi tornare questa settimana? Io volevo parlare semplicemente, mi ha incuriosito molto, al di là della curiosità della storia della banca, del sistema di profumo, di questo super general manager, che è praticamente una figura quasi unica in Italia in questo senso. Non è che ce ne siano tanti senza conoscerlo e senza sapere esattamente cosa abbia prodotto, perché in retroscena poi sono solo in pasto agli addetti ai lavori. Ma infatti molti si chiedono: come troveremo un nuovo profumo? Infatti ce n'era uno e sono riusciti a farlo fuori, nella buona o nella cattiva sorte che sia, l'hanno fatto fuori. Non si sa, ovviamente a me non è dato di sapere i motivi esatti per cui una persona che riesca a fare, che ha fatto quello che ha fatto lui, un'espansione, si chiede la globalizzazione, si chiede di uscire dallo Stato, si chiede di investire, di avere coraggio, di andare. Ci sono periodi che girano, periodi che vanno molto bene, periodi che vanno male, e questo poteva essere uno di quei cicli. Però era una delle poche persone che aveva creato effettivamente fuori dal patrio suolo qualcosa di diverso, aveva puntato ad est, ha sicuramente pestato i piedi a qualcuno, vedi Germania o qualche altra istituzione bancaria a cui poteva sicuramente una banca, la settima in Europa, dar fastidio, e è saltato. Però questo si allaccia, questa è l'introduzione, la curiosità che mi ha colpito quando mano a mano giravano queste notizie, e la seguente, che è veramente una curiosità, anche qui si parla di globalizzazione, di avere sempre il cuore e la disponibilità aperta alla globalizzazione, soprattutto dei popoli che per vicissitudini si muovono, migrano, vanno, vengono, arrivano soprattutto da noi. Questa è l'introduzione. Viene richiesto di accettarli incondizionatamente, praticamente, o con poche condizioni, almeno per quanto vedo. Stai parlando dell'immigrazione? Sì, sono saltato qui perché si allaccia a questo, perché in termini di quando si parla di migrazione, di globalizzazione, a questo punto delle masse che si muovono, dobbiamo ad accettare tutto. E a quanto pare il casus belli che ha fatto saltare il dottor Profumo stato il fatto che nel capitale della banca è arrivato un 7.5 di capitale libico, i cosiddetti capitali reali, o i capitali, insomma, che uno Stato immette in uno Stato in cui vuole comunque entrare e contare qualcosa. Perché dobbiamo accettare una globalizzazione di persone e non riusciamo ad accettare una globalizzazione monetaria? Roberto, sei stato chiarissimo, Roberto, e ti ringrazio infinitamente, solo che adesso devo cominciare a accelerare perché vedo sempre più ascoltatori in attesa. Lorenza, per esempio, da Milano, grazie Roberto. Lorenza. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a te, Lorenza. Senta, io volevo solo contestare un po' quel sorrisino su ciò che hanno fatto Brunetta, la Russa e Gelmini. Perché non sarebbe giusto l'avere i ragazzi in questa leva volontaria? Cosa c'è di strano? Cosa ci sarebbe di sbagliato? No, non è una leva volontaria. Per adesso sono dei corsi che fanno nelle scuole superiori. Allora, si chiamano Allenati alla vita. Allenati alla vita. E allora? Ma devono cosa c'è di sbagliato? Ma secondo te è bene che vadano al poligono a sparare a 14-16 anni? Perché no? Fanno del male a qualcuno? Ma potrebbero, però, se uno comincia un po' a prenderci, come dire, la confidenza con queste cose. Adesso no? C'è chi non va al poligono, però la usa lo stesso. Anzi, dovrebbero insegnare a questi ragazzi a difendersi, se non con la pistola, ma a difendersi, perché vengono assaliti dai bulli. È vero, è vero. Io non so dove voi viviate. Lei senz'altro a Milano, come vivo io, e lì vediamo. Ma non devono sì, non so se sia la strada giusta di impugnare una beretta e sparare in fronte. Ma questa è una, cominciamo con questa. Poi non avranno mica la beretta in giro, no, non raccontiamo balle. Mica sti ragazzi poi andranno in giro con la pistola a sparacchiare in giro. Ma magari si cresce un po' con quella cultura, no? Se a scuola ti avvicini a certe cose, non sarebbe meglio impiegare il tempo in altro, secondo te, Lorenzo? Ma lo impiegheranno anche in altro. Intanto cominciamo così, non fanno del male a nessuno. Sono insieme, imparano a stare insieme, non faranno mica solo quello di sparare con la beretta. Intanto imparano anche a stare insieme, a confrontarsi, e non è mica tanto. soltanto una cosa, ma intanto cominciano con quello, poi faranno anche altro, lo fanno già anche altro. Questo della... non va mai bene, qualunque cosa facciano, non vi va mai bene, niente. Poi volevo dire della... di Fini. Sì. E allora, perché dovrebbe... io non sono con Fini, ma perché dovrebbe dimettersi? Resti pure dov'è, però chiarisca la cosa. Non ci vuole mica tanto a dimostrare che lui, che la casa non è di Tulliani, del Tulliani. Chiarisca la cosa, senza mandare avanti, adesso c'è il filmato e adesso c'è quello. Lo sto cercando di guardare, Lorenza, ma niente, niente, i siti sono in tilt, non c'è verso di sentire questo video, eh. Niente, non c'è verso, ma tanto non mi a me non interessa. No. A chi interessa, aspetti un attimo, Fini, vada in televisione. A rete unificata, così lo sentiamo tutti, senza dover andare sul video a guardare. Se ha qualcosa da dire, la dica, come l'ha detta in piazza quando è andato lì e da... Mirabello. Lo dica, tutti lo ascoltiamo e ognuno di noi si farà la sua opinione. Grazie Lorenza. Di nulla. Grazie Lorenza. Adesso, dunque, c'è Cesare da Napoli prima della prossima viabilità, così se state guidando già sapete che tra poco ci sono informazioni per voi. Che dici Cesare? Salve, allora niente, in poche parole... quello che emerge è che... poche parole sono poche davvero o... Sì, sì, no, no, poche, perché sinceramente diciamo, si parla di argomenti che sono stati portati avanti anche per troppo tempo. Secondo me quello che debbono, secondo me, gli italiani evidenziare è che si sono dimenticati i problemi reali dell'Italia. Cioè, abbiamo parlato di Noemi Letizia all'epoca di Berlusconi e ultimamente parliamo dell'appartamento di Monte Carlo di Alleanza Nazionale. Cioè, il problema ovviamente dell'appartamento dell'immobile di Alleanza Nazionale è un cespite donato da una persona a Gianfranco Fini, è sì, stato donato partito, a Gianfranco sì. Fini, per la causa, quindi in poche parole una problematica all'interno del partito. Si è voluta mettere questa problematica sullo stesso piano di Scajola, che ha avuto un regalo di 600.000 euro per un immobile a Roma da un imprenditore che era nel giro della cricca, cosa che non si è riuscita perché all'inizio, se vi ricordate, era questo il presupposto, cioè mettere sullo stesso piano Scajola con Fini sullo stesso problema dell'immobile. Poi addirittura ultimamente si tira fuori D'Alema, il famoso appartamento fittato delle case popolari, per cercare di portare Fini all'interno sempre di questo sistema della politica che cerca e ricerca di trovare proprio vantaggio. L'appartamento di Monte Carlo sicuramente l'onorevole Fini sarà giustificare e trovare giustamente delle carte documentali dove si evidenzierà che non ha niente a che fare con questo problema, anche perché essendo un politico di vecchio stampo non avrà sicuramente peccato in leggerezza. Ieri sentivo una notizia su Rai 2 dove un avvocato che è passato attualmente con la destra di Storace che ovviamente adesso ha gli occhi pieni di sangue perché Confini ce l'ha a morte, quindi adesso è diventato berlusconiano, questo avvocato avrebbe fatto un'offerta di 1 milione di euro per l'appartamento di Monte Carlo e Gianfranco Fini ha risposto: non mi sembra nella posizione ideale vendere un immobile proprio a un politico del partito, quindi come è pensabile che poi l'abbia fatto con il cognato? Il perché non ha risposto è semplicissimo, per non avere la gogna mediatica, perché nel momento in cui l'onorevole Fini rispondeva su un argomento ci sarebbe stata la controrisposta da parte dell'altra parte. Allora lui ha lasciato emergere tutto quello che poteva emergere e in ultimo ovviamente il documento di Santa Lucia, cioè uno stato dove il segreto nell'ambito degli affari sporchi mondiali regna sovrano, in poche parole un ministro delle finanze fa pubblicare un documento che doveva essere interno dove si dice che la società è di Tulliani, fermo restando che questo è l'elemento della patacca, sta proprio nel fatto che non esiste una modalità del genere da parte di uno Stato che si garantisce i propri introiti economici sulla segretezza. Riciclaggio. Cesare, dimmi solo una cosa, di cosa ti occupi nella vita, posso chiedertelo? Io sono medico. Medico. Va bene. Cesare, e poi un'ultima notizia, un'ultima sola. Poche parole. Soltanto questa. Sì. Tutto questo ha fatto sì che si è coperto il non luogo a procedere sulle intercettazioni di Cosentino. Quindi Cosentino verrà processato, ma manca l'elemento chiave che sono le intercettazioni, per cui i pentiti hanno dichiarato determinate cose e la veridicità dei pentiti era sulle intercettazioni. Adesso crolla tutto l'impalcatura accusatoria contro Cosentino. È passata anche il non luogo a procedere sulla richiesta di risarcimento danni di De Lorenzo, Pomicino e di Donato, sempre nell'ambito di questa votazione segreta che è stata fatta a Roma. non ne sappiamo niente. Cioè dici, si è focalizzato tutto su quello e il resto tutto si è focalizzato tutto su quello, è come quando uno fa le pulizie in casa, no? Sotto il tappeto. Cioè, mi raccomando, tu invece pulisci bene. Quando pulisci, poche parole devono essere poche, ma sei stato chiarissimo. Scusa, ti ringrazio, ciao Cesare. Abbiamo ancora qualche minuto, mi raccomando, 800 24 00 24, sempre Roberta Giordano in vostra compagnia e in mia compagnia, in collegamento, e anche vostra ovviamente, come opinionista estemporanea oggi, la scrittrice Michela Murgia Accabadora, il suo ultimo libro con cui ha vinto il Campiello 2010. Michela, allora, ti appassiona più un commento breve su ciò che magari hanno detto gli ascoltatori finora o commentare il fatto che Niki Vendola ha detto in questi giorni ci fu un premier gay e c'è stato tutto questo imbarazzo negli ex DC perché evidentemente era un DC, che ti importa di più? È un'altra questione politica fondamentale, scoprire se c'è stato un premier DC gay. No, decisamente no. Penso di aver sentito opinionisti molto più qualificati di me in questa puntata, persone sicure, senza ascoltatori, con posizioni veramente rigide, molto... è stato interessantissimo. Allora, ci sono anche gli altri ascoltatori, ma un appuntamento in questo momento con, come possiamo dire, con la satira, con quello che è stato il blog pluripremiato, più premiato della satira politica e non solo, si chiama Spinoza.it, e Stefano Andreoli che ne combina di tutti i colori e che lo gestisce. Stefano, come mi fotografi brevemente questa settimana? Ma voi siete tutti di sinistra, ma dovete vergognarvi. Come dice l'ascoltatore Bruno, ho imparato qualcosa anche io oggi. Ho visto che comunque c'è una propensione a persone che pensano in una certa maniera a dire però quello allora si deve dimettere, sì però allora anche, ma allora siete di sinistra, eh? È un bel sillogismo forte. Dunque questa settimana, come sappiamo, è piena di cose, sorvoliamo sulla foto di Fini nudo, no, sulla copertina di Libero mentre viene cacciato dall'Eden. Ah, è vero. Fini nudo in copertina con tutti di i Libero. Dettagli, sì. Esatto, tra l'altro sulla prima pagina come di Libero, stava? C'è il paradosso di Belpietro. Belpietro pubblica la foto di Fini nudo e dice: per dimostrargli che non lo perseguitiamo, non pubblichiamo la sua foto nudo. Però è scritto sulla didascalia della foto, quindi qualche cosa un po' mi sfugge. Veniamo, altra carne al fuoco. Il settimanale Gioia intervista Veltroni in un articolo sui capi fuori moda. E questo Se ne intenderà anche lui, perché tu non sai qual è un capo fuori moda, per esempio. Il Loden in questo momento è... Forse lo stesso Veltroni è un capo fuori moda. Non sono io il papa straniero, ha dichiarato Veltroni a un incalzante Fabrizio Frizzi, perché chiaramente è importante fare chiarezza su questo quadro politico, ma parliamo anche di quest'altro fatto sollevato dall'ascoltatrice. Varato il nuovo protocollo scolastico Gelmini-La Russa, ispirato all'addestramento militare. Una novità che tornerà molto utile per la prossima conquista della Abissinia. Ecco, questa... si sa mai, insomma, no? È una cosa che può tornare utile. Il corso si chiama Allenati per la vita e prevede tiro con l'arco, pistola e arrampicata. Le ragazze invece impareranno a cucinare i mammut. Ecco, questo è un po' il piano. L'accordo mira ad avvicinare gli studenti all'esercito e a tenerli lontani dall'università. Ecco, quindi diciamo che probabilmente l'obiettivo sarà raggiunto. Vorrei chiudere con un paio di curiosità. Sì? Il pulsante dell'ascensore, non so se lo sai, hanno provato uno studio. È stato provato che il pulsante di chiamata di un ascensore è 40 volte più sporco della tavoletta di un bagno pubblico. Sì, è vero, l'ho letta questa cosa qua. Infatti, esatto, sono lì col guanto quando tocco, col gomito lo schiaccio. Però, a differenza della tavoletta del bagno pubblico, il pulsante dell'ascensore c'è sempre, perché la tavoletta non si sa mai se c'è. Comunque, per me non è un problema il fatto che sia più sporco il pulsante dell'ascensore. Io comunque lo premo sempre con la scarpa e non a posto. Fammi sapere dove prendi l'ascensore. Chiudiamo qui, Stefano? Chiudiamo un'ultima cosa. Ecco. L'apertura del Mar Rosso, il famoso miracolo di Mosè che avrebbe diviso le acque. Era un lago. Era un lago. Sarebbe scientificamente provato. Studi provano che la dinamica dei fluidi consentirebbe un fenomeno quale l'apertura di un grosso specchio d'acqua, come per il vento. Esatto, per il vento. È scientificamente plausibile, ma del resto dietro ogni romanzo di successo c'è un accurato lavoro di ricerca. Direi. Grazie Stefano Andreoli. Buona giornata e a presto. A te Stefano, dobbiamo subito galoppando andare verso Valeria della Valle. Alla quale vorrei sottoporre un termine che è stato usato in questi giorni, ma non solo in questi giorni, dal presidente della regione toscana, Enrico Rossi, il quale ha detto, insomma, ha mandato questa lettera anonima in cui si dice che qui ci sono scambi sessuali e di promozione. corruzione e cose anche nella mia regione, ma qui solo perché abbiamo un presidente del consiglio puttaniere non è che tutti lo siano. Allora, questo termine, poi lui si è un po' ricreduto, ha detto no, non dovevo usare un termine così un po' pesante, però alla fine è comprovato. Diceva, ma comunque questo termine che ti dice, Valeria, in quei 43 secondi che abbiamo? 43 secondi mi dice moltissimo. Beh, non possiamo spiegare o ricordare l'origine di puttaniere se non risaliamo alla parola da cui deriva, cioè puttana. Ecco. Puttana, tanto più i nostri ascoltatori sono tutti maggiorenni e vaccinati. La parola puttana, tra l'altro, è antichissima. Accenno solo al fatto che all'origine c'era l'aggettivo latino putidum, che guarda un po' significa puzzolente, sporco. E approfitto per ricordare una cosa simpatica, che una delle più antiche testimonianze della nostra lingua, che è conservata nella Basilica Inferiore di San Clemente a Roma, e risale alla fine dell'undicesimo secolo, c'è il primo fumetto forse della storia, e quindi vale la pena di andarlo a vedere, dove c'è un personaggio che, rivolgendosi ai servi, li chiama figli delle pute, ed è già una prima testimonianza eloquente, di quella parola, sì, che poi diventerà attraverso il francese puttana. Ma concludo su puttaniere. Puttaniere è parola antichissima, quindi in fondo il sindaco la può usare tranquillamente. I puttanieri non passano mai di moda, ed è anche il verbo che è derivato da puttana, che è puttaneggiare. Ricordo solo che puttaneggiare è stato usato già da Dante Alighieri, che nell'Inferno, canto 19, lo ha usato a proposito della politica temporale dei papi. Pensate. Ma a questo punto per oggi è meglio che mi fermi qui. Forse sì, grazie Valeria Davalle, ci ha riempito, inebriato di cultura come sempre. Cara Valeria, lo stesso Enrico Rossi diceva, guardate che c'è nel vocabolario, Valeria ne sa qualcosa. In questi 23 secondi che ci mancano, Michela Murgia, una conclusione tua, come vuoi, in libertà. Non ti sento, che dici? Ho detto, pensavo a Spinoza, non sapevo che avesse questo inserto nella trasmissione, perché proprio l'ora di pranzo, devo confessare che non vi ascolto mai. Da oggi però è obbligatorio, Michela, va bene? Sì, preferisco fare una battuta di Spinoza, sì, l'aggiungo io, visto che però bel Pietro copre le vergogne di Fini con una foglia di fico, per coprire quelle di Berlusconi sono anni che usa l'intero giornale. Vabbè. Grazie Michela Murgia col suo Accabadora Premio Campiello 2010. A questo punto vi devo dare appuntamento a sabato prossimo. Roberta Giordano intanto vi augura sereni orizzonti a tutti.